Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 32 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 24 maggio dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino. Quello che è successo in questi giorni e che mi ha portato un po' a riflettere su alcune cose è legato molto all'inizio della vita di tutti, perché parliamo di aspettative, ma aspettative diciamo in un senso generale, quello che probabilmente non riuscirò a snocciolare in una sola puntata del Vagabondo, magari sarà ripreso nelle prossime, però è un argomento dal mio punto di vista centrale nella vita un po' di tutti, uomini, donne, persone in generale, tutti, perché parliamo di aspettative. Bene, allora, e quali sono le prime aspettative di cui siamo vittime, inconsapevoli vittime, e il più delle volte vittime di una buona fede, di una voglia di strafare, di una voglia di vedere le cose andare alla grande e tutto quanto. E chiaramente non è che le cose vengono fatte con dolo, con intenzione negativa, è tutto fatto probabilmente volto al bene, però ci condiziona tantissimo, e sono le aspettative dei genitori, quindi dei nostri genitori, inteso come le aspettative su di noi, ma anche le aspettative che noi al momento in cui diventiamo genitori ci facciamo sui nostri figli, e quelle che si saranno fatti i nostri nonni sui nostri padri, e via e via e via. E questa probabilmente è una storia vecchia come l'uomo, ma è una storia che evidentemente condiziona la vita, perché questo insomma non lo sappiamo, però come dire, tutto quello che ci succede, perfino nei momenti in cui siamo ancora in grembo, diciamo un embrione che sta piano piano formandosi, ci condiziona molto nella vita di tutti i giorni, in quello che poi succederà nel nostro futuro. E questo si riflette, alla fine è normalissima questa cosa. Pensateci un po', quanti padri ad esempio appena viene fuori in famiglia che si sta aspettando un bambino, e magari il bambino è maschio, bene, allora i padri partono subito a fantasticare: mio figlio diventerà Roberto Baggio, e mio figlio diventerà un Vasco Rossi, e via discorrendo. Alla fine i figli d'arte sono molto pochi, probabilmente anche per questo. Quante persone, quanti padri fanno questo? Penso tantissimi. Tutti hanno la loro dose di aspettativa nei confronti dei figli, e magari dicono: eh sì, questo figlio ti farà il Milan, che ne so, boh, una cosa così. E lo stesso succede magari in altri ambiti, non solo nello sport. E magari dice: eh sì, io, che ne so, ho fatto il ferroviere, quindi anche mio figlio farà il ferroviere. Sono stati tantissimi negli anni le persone che hanno pensato in questo modo. Magari adesso questo paradigma sta un po' cambiando, perché giustamente sta cambiando il mondo e tutto quanto, e di conseguenza cambierà, è cambiato probabilmente anche questo paradigma. Però parliamo di cose un attimino anche più leggere. Sì, come potrebbe essere una squadra di calcio, ma quante volte succede di vedere bambini di un anno magari addobbati come un albero di Natale, che ne so, li portano in giro come se fossero che ne so, della Fiorentina piuttosto che del Palermo, che ne so, di qualunque squadra. Non è la squadra in sé quale sia che fa la differenza. La differenza la fa il creare le aspettative nei riguardi di una cosa nei confronti dei figli. E in effetti poi questa cosa si ripercuote, perché poi magari il bimbo inizia a giocare a calcio, bene, allora succede che il bimbo va a giocare a calcio e magari ha 8, 9 anni, 10 anni, 11, 12, 13, insomma anche adolescenti, insomma, quindi non proprio bimbi ma un po' più cresciuti, però chiaramente sono ragazzi, sono bambini ancora nonostante stiano crescendo, e i genitori li vedono come il futuro Maradona, e questi magari sono chiaramente solamente dei ragazzi che insieme ad altri ragazzi come loro vanno a divertirsi, vanno a passare delle ore durante la settimana di allenamento e un periodo durante una partita di calcio, ma per divertirsi. E magari succede che in tribuna i genitori, questo i padri, insomma più che le madri, però anche le madri in questo caso, perché quando seguono poi l'amore di mamma probabilmente è molto forte. E cosa succede? E magari i ragazzi giocano tranquilli e l'arbitro chiaramente potrà sbagliare un calcio di punizione, un fallo laterale, qualsiasi cosa, ma è normale, è un essere umano l'arbitro come un essere umano chi gioca, e lì partono le offese più allucinanti. Io, mi è capitato negli anni, per dei motivi miei che non sto qua a dire, ma insomma di ascoltarne di moltissime, di più o meno colorite, qualcuna anche divertente, però è divertente magari per l'arbitro che è un uomo, e comunque anche se è un ragazzo magari giovane è comunque un uomo, però per il bambino che è lì che sta giocando e sente le offese, sente gli insulti, sente gli sfottò da parte dei propri genitori nei confronti magari dell'arbitro o magari addirittura anche di altri piccoli calciatori o di qualche allenatore, perché anche gli allenatori dei ragazzi sono una delle categorie più offese, perché chiaramente in Italia come funziona? In Italia siamo tutti più bravi ad amministrare quello che non stiamo amministrando, e siamo tutti più bravi ad allenare una squadra di calcio rispetto a chi è demandato a farlo in quel momento, in quel preciso momento lì. Di conseguenza offese all'allenatore: non hai fatto giocare mio figlio e hai fatto giocare il figlio di quell'altro, e lui gioca perché è raccomandato, e quello gioca perché è biondo, e quello non gioca perché è moro. C'è delle cose allucinanti, ma i ragazzi, i figli vostri sono lì esclusivamente a divertirsi e voi gli state sciupando tutto questo divertimento e gli state condizionando i pensieri della vita futura, perché chiaramente se uno poi è abituato a sentire certe cose, a crescere in mezzo a queste cose prendendole come buone, probabilmente non è così edificante, non è così formativo, e in effetti sarebbe preferibile dal mio punto di vista che, cari genitori, un po' un attimino vi fermaste a pensare bene a quello che fate, perché è incredibile vedere dei bambini di 10 anni che vengono a giocare al calcio al campetto e si vestono per giocare come El Shaarawy con quella cresta clamorosa. Io una volta ho assistito a una conferenza di un allenatore, cioè non ho assistito personalmente, mi è stata riferita, di un allenatore di Serie A che ha fatto una conferenza che chiaramente era, la sala era piena di giovani calciatori, di ragazzetti che giocano a calcio, un allenatore di Serie A che parla, quindi è molto interessante, e ad un certo momento questa persona disse: ragazzi miei, state attenti a non farvi imbambolare dalle televisioni, perché quel calciatore lì, El Shaarawy proprio in questo caso, o El Shaarawy o come si pronuncia, ora abbiate pazienza se l'ho pronunciato male, mi auguro di non aver ferito il sentimento di nessun tifoso di calcio, però quello lì c'ha una cresta perché c'è uno sponsor dietro che lo paga per avere quella cresta assurda, che per giocare a calcio quella cresta lì gli dà anche noia, perché te lo immagini uno che con una cresta del genere deve andare a colpire di testa il pallone con tutto il gel, perché la cresta deve stare perfetta uguale dal primo all'ultimo minuto di partita, perché tutte le volte che la televisione lo inquadra lì lo sponsor paga, e chiaramente quello è un impedimento. Eppure ci sono ragazzi che, caldeggiati da genitori che sono probabilmente i ragazzi, sai, magari ci si ritrovano in una situazione del genere, non è che analizzano questa cosa qua, ma i genitori lo dovrebbero fare, i genitori avrebbero il dovere morale dei genitori di fare una cosa del genere, di analizzare i comportamenti propri che si riflettono sui figli, perché in effetti alla fine a sciupare certi momenti della vita dei ragazzi ci vuole veramente poco. Alla fine chiaramente è molto facile alzare, come è molto facile abbassare, insomma, i momenti di crescita dei ragazzi. Quindi state attenti, cari genitori, perché le vostre aspettative, che è giusto anche avercele, io non sto qua a dire che le aspettative siano sbagliate, però state attenti a non esasperarle, perché esasperandole create, diciamo, dei mostri, ma non saranno i vostri figli dei mostri, siete un po' voi i mostri che state, diciamo, sciupando certi momenti nella vita dei vostri figli. Bene, e questo chiaramente per quanto riguarda la sfera maschile. Per quanto riguarda la sfera femminile, alla fine è la stessa cosa, perché quante madri magari nasce una figlia femmina e si ritrovano lì a pensarla, che ne so, sposata da grande in un certo modo, la famiglia in un certo modo, o oppure genitori, madri in questo caso molto più che i padri, che si comportano con i figli come magari loro hanno ricevuto il comportamento dai propri genitori, senza rendersene conto che gli stanno facendo del male. Quindi magari c'è qualcuno che osteggia l'allontanamento da casa, c'è qualcuno che osteggia il, come si potrebbe definire, il volersene un attimino andare e abbandonare, diciamo, l'ovile, la casa natia e quindi la famiglia e tutte queste cose qua. E anche questo condiziona molto la vita poi di quelli che saranno gli adulti del domani, che in questo caso sono i vostri figli. Quindi attenzione, perché anche in questo caso le aspettative sono molto molto deleterie. Bene, e come detto, probabilmente questo argomento sarà da riprendere, perché questo argomento delle aspettative è un argomento che probabilmente è preferibile analizzare un po' a spezzoni, a compartimenti stagni. Adesso ho preferito parlarvi delle aspettative che si sono fatti i genitori, si fanno i genitori e che le esasperano un po'. Poi magari vi parlerò di quelle che sono le aspettative che noi abbiamo nei nostri confronti e alla fine le aspettative che gli altri hanno nei nostri confronti, che è un argomento che in generale scatena una miscela di eventi che probabilmente non sono molto edificanti nella vita in generale. Ebbene, quindi siamo arrivati anche oggi al momento del caffone vagabondo. E il caffone vagabondo chi è? Il caffone vagabondo di oggi è quello che io, per scherzare così, per divertimento, definisco il caffone del fazzoletto. È quello che si deve soffiare il naso, è preferibile che lo faccia con un fazzoletto, e quindi ha il fazzoletto di carta se non quello di stoffa, dà una bella soffiata di naso, anche bella corposa, con quel rumore molto particolare e molto caratteristico che fa anche un po' ridere a volte, e poi prima di intascare il fazzoletto o gettarlo nel caso del fazzoletto di carta, dà una generosissima controllata al prodotto che gli è uscito dal naso, e a volte scompare anche un mezzo sorriso di compiacimento per la quantità e la qualità del muco che è uscito di fuori. O sempre meglio del caffone del fazzoletto 2.0, quello che senza fazzoletto si tappa una narice e con l'altra soffia fuori per la strada il muco in eccesso. Bene cari amici, io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato fin qua. L'appuntamento si rinnova per la settimana prossima ancora sulle frequenze di Radio Big World, e nel frattempo attenzione al fazzoletto e siate saggi.